escondido. Millones de oídos serán receptivos. Su grito será de guerra y victoria, como un tableteo que anuncia la gloria. Y por corazón a ese hombre daremos el del guerrillero que todos sabemos. Lo haremos tú y yo por brazo un fusil. Nosotros lo haremos por luz la mirada. Tomemos la arcilla, es de madrugada. Eccoci qua allora in diretta su Radio Onda Rossa. Vi ricordo in ogni caso che questa radio, completamente autogestita, autofinanziata dal 1977, ha quindi bisogno del sostegno di tutti e tutte quelli che la fanno e l'ascoltano, che spesso sono le stesse persone, gli stessi militanti, e quindi date i vostri contributi versandoli al conto corrente postale 61804001, intestando il bollettino a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185 Roma. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. E quindi vittoria elettorale di Hugo Chavez Frias ieri alle elezioni in Venezuela, con un'affluenza record dell'81%, un'affluenza incredibile anche per anche rispetto alle elezioni precedenti in Venezuela, ma direi rispetto a tutto il mondo, in particolare all'America Latina, dove diciamo il distacco dagli strati popolari si misura anche nell'alto tasso di astensione. Pensiamo alla vicina Colombia, dove nemmeno la metà degli aventi diritto vanno a votare. Invece ieri in Venezuela, in queste 12 ore di urne aperte, l'81% è andato a votare, e di questi ben 8 milioni hanno votato per Hugo Chavez. Quindi il primo dato che c'è da prendere è il grande consenso di cui gode quello che è ormai dal 1999 il presidente del Venezuela. E oggi cercheremo anche di spiegarci questo consenso. Sto vedendo il numero di votanti per Chavez in queste quattro elezioni in cui è risultato vittorioso, e sono sempre aumentati a partire dal 1998, in cui totalizzò 3,7 milioni di voti, per arrivare a quest'anno con 7,9 milioni di votanti. C'è da dire che sono stati anche parecchi quelli che hanno votato contro Chavez, perché sono stati più di 7 milioni, quindi ci sarebbe da fare un'analisi anche su questo. Purtroppo bisognerebbe essere dei sociologhi o degli esperti del Venezuela. Noi non lo siamo, leggiamo gli articoli che arrivano da questa altra parte del mondo e cerchiamo di farci un'idea che, basandoci su quegli stessi articoli, può essere appunto positiva per tanti aspetti, più critica rispetto ad altri. Con intelligenza ci approcceremo sempre a questo processo, senza farci trascinare da tifoserie scatenate né da troppo semplici critiche, accuse che spesso si basano più sulla superficialità che su altro. E purtroppo, proprio per la superficialità che impera sul Venezuela, su Chavez, sul processo bolivariano, ogni volta che parliamo di Venezuela ci tocca precisare alcune cose, perché paradossalmente la maggior parte delle persone che sanno che esiste il Venezuela, perché probabilmente molti non l'hanno nemmeno sentito nominare, non si interessano alla situazione politica internazionale, però pensano che in Venezuela c'è una dittatura, che Chavez è un dittatore, che non ci sia libertà d'espressione, libertà di stampa, che il governo controlli in sostanza tutte le fonti di informazione e mobiliti l'elettorato per, in maniera quasi coercitiva. Noi quindi purtroppo ogni volta ci dobbiamo fermare 10 minuti per ricordare che tutto questo non è vero e portare i dati, le relazioni internazionali che testimoniano che non è così, prima di vedere appunto un'analisi più particolareggiata del processo bolivariano. Ad esempio, molti probabilmente pensavano che queste elezioni erano una farsa completa, che in qualche modo Chavez manipolava il voto, eccetera eccetera. In realtà, proprio per scendere nei particolari a vedere quali sono i dati, queste le elezioni in Venezuela vengono organizzate come in moltissimi paesi dove si hanno elezioni per così dire democratiche, quindi riconosciuti dagli organismi internazionali, attraverso un corpo indipendente dal governo, il Consiglio Nazionale Elettorale. Pensate che questo corpo è effettivamente indipendente dal governo, che la stessa opposizione se n'è servita per organizzare le elezioni primarie che hanno designato lo sfidante di Chavez. Questo corpo ha goduto anche degli apprezzamenti di parte dell'opposizione venezuelana e ha organizzato queste elezioni, riuscendo tra l'altro negli anni del governo di Chavez ad estendere la possibilità di voto in Venezuela, perché molte persone non materialmente era molto difficile per loro andare a votare, visto che magari vivendo in delle zone rurali o nella giungla, in villaggi spersi nelle grandi pianure venezuelane, non venivano approntati dei seggi nelle loro vicinanze e quindi non potevano andare a votare. Pensare che nel 1998 11 milioni di venezuelani erano registrati alle votazioni e oggi sono 19 milioni, quindi sono aumentati di 8 milioni su 11, quasi raddoppiato il numero dei venezuelani che oggi può esercitare il suo diritto al voto. E i seggi invece sono quasi raddoppiati, sono passati da 8.000 a 14.000, quindi grandi possibilità di voto per la popolazione venezuelana, a dispetto di tutte le cose che si leggono su El País o sul Corriere della Sera o su altri giornalacci del genere. Tra l'altro, come nella maggior parte delle elezioni riconosciute a livello internazionale, ci sono degli osservatori internazionali, per l'appunto, che verificano che il voto si svolga secondo tutti i crismi della cosiddetta democrazia. In questo caso c'erano appunto osservatori dell'Unione delle Nazioni Sudamericane, c'erano osservatori dell'Organizzazione degli Stati Americani, c'erano anche osservatori dell'Unione Europea, come ci sono stati in tutte le elezioni precedenti. Quindi non si capisce perché sui giornali, io per esempio mi ricordo su una rivista, credo il venerdì di Repubblica, che non so in che modo mi è capitata tra le mani, c'era una cartina che mostrava quelle che nel mondo sono oggi le dittature, e il Venezuela era compreso in questa lista. Io non so su quali basi abbiano compilato quella cartina. In ogni caso sono falsità, perché questi dati appunto stanno a dimostrarlo, e gli osservatori anche dell'Unione Europea hanno sempre riconosciuto la validità di queste elezioni. Nel 2006 il capo della missione degli osservatori dell'Unione Europea ha detto che l'elezione è stata condotta in rispetto delle leggi nazionali e degli standard internazionali. Pensare addirittura che un ex presidente statunitense, quindi di sicuro non un amico del Venezuela, Jimmy Carter, ha detto che il sistema elettorale venezuelano è il migliore del mondo addirittura. paragonandolo a quello statunitense, dove dice c'entrano troppi soldi nelle campagne elettorali, troppi condizionamenti da parte delle grandi multinazionali che sostengono questo o quel candidato dandogli parecchi soldi per la loro campagna elettorale. Dice invece in Venezuela questo non c'è, ci sono anche delle macchine elettroniche che vengono attivate solo quando l'impronta digitale che corrisponde al numero della carta d'identità del votante è registrato nel database, quindi tutto un sistema per garantire la sicurezza del voto. E questo perché purtroppo, perché dobbiamo ricordare queste cose anche abbastanza pallose, perché molti pensano che in Venezuela non c'è democrazia, che non ci sia libertà di stampa. Ma come si fa a dire una cosa del genere quando la maggior parte delle televisioni, dei giornali stanno nelle mani dell'opposizione, quando addirittura il candidato dell'opposizione è proprietario di una catena di giornali? Vabbè, questa purtroppo è quello che ci offre la stampa nazionale e internazionale. Il New York Times, El País ci riempiono in continuazione di queste cavolate sul Venezuela, e non è così. Abbiamo pubblicato un video molto carino di una dichiarazione fatta da Chavez ieri, andatevela a vedere su YouTube, ci potete arrivare anche tramite il nostro sito Comitato Carlos Fonseca .noblogs.org. è un video dove Chavez dice purtroppo questa è l'immagine che c'è del Venezuela, ma venite in Venezuela a vedere la democrazia, camminate per le strade. Vi faccio sentire questo pezzo, poi andiamo a parlare di cose più serie. Purtroppo abbiamo dovuto fare questa premessa perché quello che la maggior parte delle persone pensano è che in Venezuela non c'è una democrazia. Scusate, tolgo la musica, qua come al solito ci sono notevoli problemi tecnici, ma d'altronde non siamo professionisti della radio informazione, facciamo altro nella vita e cerchiamo in qualche modo di fare anche radiofonia, e questi sono i risultati, magari dal punto di vista tecnico pessimi, però è sempre un modo per esprimere la propria voce. Aquí hay dictaduras que son presentadas como democracia, y claro, Goebbels, la mentira, mentira y mentira repetida un millón de veces. Hay gente que cree que es verdad, y en verdad en este mundo hay gente que cree que yo soy un tirano, que aquí no hay elecciones, que todo esto es una mentira. Pero te repito con todo mi corazón, el que quiera ver una democracia pujante, sólida, madura, abierta, y no solo porque haya elecciones cada 6 años, todos los días, una democracia. Mira estos barrios, pregunta tú cómo eran antes estos barrios, reprimidos, pobres, miserables. Ahora hay un pueblo despierto, participando todos los días. Tú vas a conseguir comunas, consejos comunales, bancos populares. Es un pueblo que está recibiendo poder, porque esa es la esencia de la democracia. No es la elección cada 6 años o cada 5 años. La esencia democrática es el poder en manos de su dueño, el pueblo. El que quiera ver democracia, venga a Venezuela. Bye. mete candela, cocínalo de arriba, rompa la soga que no domina. Enciéndete candela y cocínalo de arriba, rompa la soga que no domina. Que no toquen nuestra tierra y que no coman el maíz, que no beban nuestra agua ni el gas de Potosí. Que no toquen nuestra tierra y que no coman el maíz, que no beban nuestra agua ni el gas de Potosí. Ed eccoci qua, allora dicevamo, cerchiamo di suddividere un po' l'analisi in due parti, ora vediamo quali sono le cose positive di questo processo bolivariano, poi in un secondo momento vedremo invece quali sono le critiche che gli possono essere fatte. Prima di tutto, prima di fare questo discorso, dobbiamo partire da un fatto: il governo di Chavez non è un governo che arriva sull'onda di grandi movimenti sociali in Venezuela e che in un qualche modo li strozza, cerca di capitalizzarli sul piano elettorale e quindi rallenta anche una forza che è presente nella società, nei diversi settori della società venezuelana. In realtà il governo di Chavez viene dopo un periodo in cui le organizzazioni dei lavoratori, le organizzazioni sociali venezuelane sono ridotte a un lumicino. In realtà nella storia del Venezuela non ci sono organizzazioni sociali forti come per esempio abbiamo nella vicina Colombia. C'è una grande esplosione di rabbia nell'89 con l'aumento, dopo il Venezuela è un paese che si regge sull'economia petrolifera, crolla il prezzo del petrolio, il governo cerca di praticare delle riforme consigliate al Fondo Monetario, c'è una grande esplosione di rabbia, una grande repressione con più di 300 morti nella sola Caracas nel 1989. Però a parte qualche caso isolato non ci sono grossi movimenti sociali, grosse organizzazioni di lavoratori, organizzazioni sociali, di contadini eccetera. Chavez però rappresenta quello che è un candidato che fa un discorso di discontinuità rispetto al passato regime. Ci sono due presidenti inquisiti, uno per corruzione verrà condannato e Chavez aveva provato a destituirlo con un colpo di stato che però gli era andato male e Chavez vince in questa situazione. Quindi quando si approccia al Venezuela bisogna considerare che in ogni caso il governo che ormai siamo arrivati al 13° anno di Chavez è un governo che ha favorito la nascita di forze sociali che prima erano molto limitate in Venezuela. Come l'ha fatto? Promuovendo la creazione di consigli comunali che a livello comunitario gestiscono importanti progetti di infrastrutture, di piccole infrastrutture naturalmente, di progetti di salute, di istruzione, di mezzi di comunicazione comunitari, e tutto questo in forma assembleare, in forma orizzontale. Naturalmente ci saranno dei casi più di successo e altri dove le cose funzioneranno in maniera più clientelare, più gestita da pochi che altro, ma questo sta nell'ordine delle cose, sta ovunque esiste l'essere umano. E oltre a questo vedremo poi anche delle esperienze di fabbriche autogestite da lavoratori sul modello di quelle tipo la Zanon occupate e autogestite da lavoratori dopo il 2001. In Venezuela niente di tutto questo esisteva e oggi esiste proprio per il sostegno che gli ha dato il governo di Chavez. E poi ci sono stati dei piani sociali che hanno trascinato fuori dall'analfabetismo, dalla povertà estrema, gran parte della popolazione venezuelana. Vi leggo alcuni dati: case popolari a marzo 2011, nel 2011 è partita la Gran Misión Vivienda con uno stanziamento di Tri, con che mira, visto che sono 3,7 milioni il numero dei venezuelani senza casa, a costruire entro il 2019, quindi alla scadenza di questo mandato che inizia ora, quarto mandato di Chavez alla presidenza del Venezuela, ben 3 milioni di appartamenti. Ma ci rendiamo conto di quanto, di quanto è grande questa cifra? Qui in Italia non vengono costruiti, non c'è l'edilizia popolare da, da decenni ormai, e in Venezuela già sono state costruite, di questi 3 milioni, 200.000 abitazioni nel corso dell'anno passato e di metà di questo 2012. Sono costruiti per il 30% dal settore privato e il 70% da quello pubblico, con la partecipazione delle organizzazioni popolari di base, che quindi in molti casi riescono a partecipare a questi processi di redistribuzione. Oltre al, alla costruzione di case, cioè ormai da 9 anni questa missione sanitaria Barrio Adentro, che in, in spagnolo significa dentro il quartiere, che coinvolge ora 12.898 dottori cubani e venezuelani, 4.500 dentisti, più di 7.000 infermieri, hanno costruito 6.700 pronti soccorsi comunitari, eccetera, eccetera, eccetera. Questa missione fornisce gratuitamente visite mediche, esami e radiografie, terapie e di riabilitazione, medicine, assistenza specializzata, gratuitamente, ripeto, non devono pagare un ticket come dobbiamo fare anche noi qui in Italia. E perché succede? Perché naturalmente il Venezuela ha questa grande ricchezza nel suo sottosuolo, è uno dei paesi più ricchi di petrolio al mondo, ma era ricco di petrolio anche prima della vittoria di Chavez, solo che il reddito su cui il garantito da questo petrolio veniva incamerato solo da una piccola parte della popolazione, mentre ora viene redistribuito e riesce a finanziare tutti questi programmi sociali. Poi, per esempio, parlavamo prima della riforma del lavoro in Messico, una riforma del lavoro che va verso queste riforme di precarietà che abbiamo anche, anche qui in Europa, qui in Italia, l'ultima quella del DDL Fornero, ma è solo l'ultima di una lunga serie. Invece in Venezuela si va in controtendenza rispetto a questo aumento della precarietà. La nuova legge organica del lavoro è stata approvata in maggio, data simbolica quella del 1 maggio, e prevede la riduzione della settimana lavorativa da 42 a 40 ore, l'obbligo di 2 giorni di riposo consecutivi settimanali, l'estensione del congedo di maternità da 12 a 25 settimane, il diritto per i genitori di assenza dal lavoro in caso di malattia dei figli, e si cercano di dare anche gli strumenti al, al potere legislativo per regolare il subappalto, per eliminare addirittura il subappalto. Quindi tutti questi provvedimenti sono naturalmente un miglioramento per le condizioni di vita dei venezuelani. Así en China Meca perdieron la vida un puñado de valientes. Señores, ya me despido, que no tengan novedad. ¿Cuál héroe murió Zapata por la tierra y libertad? Ora, naturalmente, si potrebbe approfondire molti di questi argomenti. L'abbiamo fatto in passato con i consigli comunali. Sul nostro sito ci sono molti articoli che trattano queste cose. Facciamolo ora, spendiamo qualche minuto per parlare invece di questo, di questa esperienza delle fabbriche autogestite dai lavoratori. Sono fabbriche dove è l'assemblea dei lavoratori il corpo sovrano, sono fabbriche che sono state statalizzate, nazionalizzate dal governo, ma che, a differenza di altre fabbriche sempre nazionali, non è che tutte le fabbriche nazionalizzate sono autogestite dai lavoratori, lo faccio notare, però ci sono alcune esperienze, alcune decine di esperienze che vanno in questo senso. Per esempio, diciamo, un caso di quelli più di successo è quella della Grafitos dell'Orinoco, una fabbrica che produce appunto grafite nel, nell'Oriente del Venezuela, in questa, in questo dipartimento, la Guayana, come dice il nome, al confine con la Guyana, l'ex, cioè con il Suriname, ex Guyana olandese, che è una zona ricchissima di materie prime, in questo caso non petrolio ma oro, carbone, ferro, eccetera eccetera, e ci sono anche quindi numerose fabbriche. E nel 2009 questa fabbrica è scesa, i lavoratori di questa fabbrica, che a quel tempo erano privati, sono scesi in sciopero contro il governo, che contro il suo proprietario, che rifiutava di negoziare un nuovo accordo collettivo, e ha provato a chiudere la fabbrica portandosi via naturalmente i macchinari. I lavoratori hanno occupato la fabbrica per 8 mesi e hanno impedito che venissero portati via questi macchinari. Alla fine dell'occupazione erano solo in 18 a restare degli operai della fabbrica, molti per ragioni economiche. Naturalmente uno sciopero di 8 mesi è difficile da sostenere. Sono rimasti, hanno trattato con il governo e il governo ha rilasciato attraverso un decreto, ha riconosciuto la riattivazione della compagnia sotto il potere di gestione dei lavoratori. Poi è iniziato da quel momento questo processo che ha portato poi nel 2011 nazionalizzare la fabbrica, ma con un accordo tra lavoratori e governo che prevede che è l'assemblea dei lavoratori di questa fabbrica a gestirla, una fabbrica che, ricordo, produce grafite, che poi viene utilizzata in altri stabilimenti industriali della regione. Lleva in nitrato di ammonio 85%, un 10 di acerrín le pongo e un 5 aluminio negro. Mentre l'assemblea dei lavoratori della fabbrica rimane l'organo di sovrano per le prese di decisioni, ci sono vari comitati che gestiscono vari aspetti dell'organizzazione della fabbrica, dalla contabilità all'organizzazione del lavoro alla produzione, eccetera eccetera. Anche altre fabbriche della regione sono state nazionalizzate, come la Sidor, una fabbrica di acciaio che apparteneva a un'impresa argentina che aveva completamente smesso di investire nella rinnovazione degli apparecchi e che quindi è stata nazionalizzata dal governo. E tutte queste fabbriche, la cosa interessante, sono state poste sotto un unico organo di controllo da parte del governo e sono state inserite in un piano che si chiama Piano Socialista della Guayana, che prevede l'integrazione anche a livello organizzativo di queste fabbriche. Molte di queste sono gestite da lavoratori e si cerca di estendere la gestione dei lavoratori anche al resto delle fabbriche di questo piano. Naturalmente è un piano che ha tanti problemi, non ultimo quello della tendenza a sclerotizzarsi di una nuova burocrazia che gestisce appunto le varie fabbriche e il piano in generale, ma ogni volta che ci si sporca le mani con la realtà avvengono queste questioni. Ci sono, come già detto, come anche nel caso dei consigli comunali, delle esperienze più positive, altre più criticabili, ma tutte queste sono, volenti o nolenti, lo dobbiamo riconoscere, state rese possibile da questo governo, che le ha favorite e le ha sostenute. Questi i lati positivi. Ora prendiamoci una pausa musicale e poi vediamo invece quali sono le ombre che naturalmente ci sono in questo processo, le cose criticabili, le cose che potrebbero andare diversamente. Una declarazione per tutto il mondo. Una declarazione. Desde Latinoamérica, el tercer mundo. Porque nosotros no vamos a aguantar que la cosa siga siendo igual. Nos vamos a parar, nos vamos a levantar. Porque nosotros no vamos a aguantar que la cosa siga siendo igual. Nos vamos a parar. nos vamos a levantar. Inteligente siempre mi respuesta voy a dar, para que el sistema no me pueda derrotar. Yo seguiré luchando siempre hasta el final, aunque yo me canse yo me volveré a parar. Te lo digo con amor, sí. Desde Chile, desde Latinoamérica, pensante se siente mi gente ardiente, luchante, sí. Vacilando en un recital, vacilando en un recital, vacilando en un recital, en vivo de la música, contestataria positiva, viva. Hey, hey, hey. Porque voy a seguir, yo no voy a parar, nunca para destruir, siempre para crear. Yo no voy a parar, porque voy a seguir, nunca para destruir, siempre para crear. Ayudar, cooperar, avanzar, evolucionar, amar, sentir, cantar, reír, soñar, también sufrir para seguir. Agradeciendo, agradeciendo tanto, agradeciendo tanto. Nuestro Señor Creador, Madre Tierra, Pachamama, fundadora de la vida, divina hermana, que nos cuide y nos protege día a día. Aceptemos, realicemos, respetemos, amemos, no perdamos, siempre ganemos. Descubramos los suspiros de nuestros sueños y vamos hasta el fondo como un maldito. Recordando de que el tiempo resucita, si queremos las palabras que escribimos, nos tendrán aquí despiertos. Eso es lo que, pero el palo y la violencia desconecta la conciencia. No olvidemos que peleamos, pero en contra de la guerra no debemos justificar el que mal, sabotear y robar. Solo porque quiero protestar, es más fácil destruir que crear. Y el noticiero va a mostrar tus manos con los palos y las piedras. Tenemos que cambiar esa weá y conseguir respeto de verdad, hermano. Eso es lo que quiere mucha gente, que tú no pienses y que te manifieste a través de la violencia y no tranquilamente. Yo a mi padre le agradezco todo lo que veo en mi mente. Por eso yo puedo improvisar y entonces cantar y entonces averiguar que el mundo es uno solo, es uno solo. Y nos pertenece a todos, con la fuerza de la voz voy a destrozarlo con mi canción. Yeah, yeah, yeah, yeah. Esa es la bala de mi trinchera, cabrones. Quando stavamo... Ed eccoci tornati in diretta su Radio Onda Rossa 87.9, gli ultimi 6 minuti di questa trasmissione. E quindi dicevamo, i punti dolenti di questi 12 anni di governo chavista. Uno è senz'altro quello del ruolo della donna nella società venezuelana. Pensate che secondo un sondaggio l'87% dei venezuelani è contrario all'aborto, criticherebbe una ragazza di 17 anni che decidesse di abortire, mentre una cifra inferiore, l'81%, rifiuta l'aggressione dell'uomo sulla donna, l'aggressione fisica o di altro genere. In Venezuela l'aborto è legale solo nel caso in cui la vita della donna sia in pericolo, come in tutti gli altri paesi dell'America Latina praticamente, eccetto l'Uruguay e, guarda un po', Cuba, dove l'aborto è legale naturalmente. E quindi in tutte le altre situazioni, naturalmente sia in quelle dove la donna semplicemente non vuole avere figli e quindi dovrebbe avere il diritto a interrompere la gravidanza, ma anche in quelli dove per esempio la donna è stata stuprata ed è incinta dell'uomo che l'ha stuprata, nel caso in cui il feto abbia presenti delle malformazioni o per tutti gli altri tipi di ragione, l'aborto è illegale. Questo che significa? Che le venezuelane abortiscono clandestinamente e secondo una statistica addirittura la metà delle venezuelane hanno abortito clandestinamente. E naturalmente gli aborti clandestini, che costano tra i 4 e i 6 mila bolivares, ossia 2-3 mesi della paga minima, tanto per rendere l'idea, una cosa costosissima e naturalmente pericolosissima, quello di la morte per complicazioni dovute a un aborto clandestino è la seconda causa di morte tra le donne tra i 12 e i 49 anni in Venezuela. Il 16% delle morti di donne sono causate per complicazioni risultanti dall'aborto clandestino. E abbiamo visto come questo rifiuto dell'aborto sia profondamente radicato nella mentalità patriarcale venezuelana. E naturalmente l'influenza della religione è enorme. Moltissime persone, se gli si chiede il perché sono contro l'aborto, spiegano che l'aborto è un assassinio prenatale e si prende la vita di un innocente e senza difesa essere umano. Quindi tutte argomentazioni utilizzate dalla Chiesa. Pensiamo che in Venezuela il 90% si dichiara credente, anche se poi sono pochi quelli che vanno in chiesa, molti magari sono anche antipapisti perché la Chiesa venezuelana appoggia l'opposizione, quindi naturalmente molti chavisti non la vedono di buon occhio, però si dichiarano credenti e naturalmente assumono anche questa mentalità che viene sostenuta dalla Chiesa, ma che è ormai un problema culturale dei venezuelani, ma di tutta il Sud America. Cioè c'è una mentalità religiosa fortemente radicata, la maggior parte della popolazione è cattolica, ma c'è un 20% di cristiani protestanti in Venezuela. Quindi diciamo è fortemente radicata. Però qual è la questione? Abbiamo visto come il governo venezuelano abbia negli anni creato una diversa mentalità per tante questioni, per esempio sull'autogestione delle fabbriche da parte dei lavoratori. Abbiamo visto come ha cercato di alimentare la partecipazione alla vita politica dei venezuelani, mentre su questo evidentemente non ha fatto altrettanto, non c'è stato questo tentativo di cambiare la mentalità, anche a partire da una legge che potrebbe essere anche impopolare come quello dell'aborto. Ma non pensiamo che a Cuba, quando è stato legalizzato l'aborto, esso fosse popolare. È stata una scelta giusta di un governo, magari fatta contro l'opinione pubblica, ma che poi va sostenuta, va spiegata, va alimentata una nuova cultura, e può essere che anche le persone cambiano mentalità. Anche perché se poi vediamo che la metà delle venezuelane sono costrette a abortire clandestinamente, quindi la questione è di mentalità, non è di necessità sociale. E questo sicuramente è un aspetto da criticare del governo venezuelano. Ce ne sono tanti altri sul piano economico. Il modello che viene proposto dal governo bolivariano è un modello basato su un'economia del petrolio e su un'economia estrattiva. Noi, per esempio, leggendo questo secondo piano socialista 2013-2019, che è il programma di Chavez per le elezioni, per il prossimo mandato, possiamo vedere che viene dato un grande spazio allo sviluppo industriale, alla creazione. Purtroppo, ragazzi, ci sono i compagni d'impatto che mi vogliono cacciare dal microfono. A me piacerebbe tanto parlare ancora di Venezuela. Lo faremo sicuramente a partire da settimana prossima. Riprenderemo questo tema, ma ripubblicheremo tutti questi articoli sul nostro sito internet. Lasciamo quindi i microfoni di Radio Onda Rossa a Impatto, e noi ci risentiamo lunedì prossimo a partire dalle 17 dalle 16:30, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Salutiamo tutte e tutti quelli che ci hanno seguiti finora, in particolar modo chi lo ha fatto privato della propria libertà personale.